sta accadendo qualcosa che davvero nessuno poteva aspettarsi. Si è parlato di attacco a sorpresa da parte della resistenza palestinese, in particolar modo di Hamas. Io in genere ho qualche resistenza a parlare appunto di Hamas, perché in genere la resistenza procede unita. In questo caso è sicuramente unita, ci sono anche altre unità e altre brigate che stanno partecipando a questa operazione che è stata chiamata il ciclone di Al-Aqsa, ma è chiaramente un'operazione targata a Hamas. Quello che succede è il frutto di ciò che Hamas ha seminato per almeno 2 anni, ovvero l'intenzione di rovesciare le regole del gioco e di non farsi dettare le tempistiche del conflitto da Israele, ma di appunto decidere quando intervenire. Quindi per la prima volta nella storia delle dinamiche israelo-palestinesi non è stato quello di Hamas, non è stata un'azione difensiva, ma è stata un'azione offensiva. Nella mattinata all'alba di sabato, con un numero incredibile di combattenti, Hamas ha via terra, aria e mare, anche con paracaduti e con un comando navale, ha invaso moltissimi insediamenti coloniali e moltissime città israeliane, prima intorno alla la striscia di Gaza e poi spingendosi anche oltre. Hanno preso il controllo del valico di Erez, che è un valico molto, diciamo, simbolicamente molto importante, perché è l'unico valico commerciale che Israele chiude ed apre a piacimento per quanto riguarda l'assedio di Gaza, e quindi in quel momento hanno iniziato a penetrare il territorio israeliano in modo massiccio, inaspettato, uccidendo moltissime persone, riuscendo a prendere il controllo di ampie porzioni di territorio. E questo, diciamo, ha colto assolutamente di sorpresa non solamente l'esercito israeliano, ma anche tutto l'apparato israeliano e chiaramente la popolazione israeliana, che si è ritrovata in uno stato di caos. Bastava leggere le primissime analisi dei giornali, dei media israeliani, per capire che c'era grande sconcerto. Tutti hanno parlato chiaramente di un fallimento totale del sistema Israele, ma comunque era qualcosa di assolutamente inedito. Qualcuno alla guerra del Kippur, del Yom Kippur del 1973, e sicuramente c'è stato un riferimento, visto che appunto c'è stata una coincidenza nelle date, cioè coincideva l'anniversario, ma io credo che questa sia diversa, perché i palestinesi stanno agendo, la resistenza palestinese sta agendo da sola per il momento, e questo davvero è una dinamica assolutamente inedita. Niente di questo era mai capitato. Finora Israele ha cercato in questi 2 anni di provocare una reazione in Hamas, invece avevamo visto che diciamo a guidare le azioni difensive era piuttosto Stato islamico, e Hamas restava abbastanza in disparte, tanto è vero che questo atteggiamento attendista era stato anche molto criticato all'interno appunto di gruppi filo-palestinesi, ma appunto noi avevamo scritto al Palestine Chronicle più volte che nel tempo l'arsenale militare di Hamas si stava potenziando e che la strategia del movimento di resistenza islamico era esattamente quella di iniziare a dettare i tempi e non farsi dettare da Israele. In parte l'hai già citato, però in molti stanno osservando come l'intelligence israeliana, che anche, come dire, a livello narrativo viene raccontata come una di quelle più, diciamo, efficienti del mondo, non si è riuscita a prevedere quello che stava per accadere. Sì, è davvero un fallimento del sistema Israele e del mito della sicurezza che ha ispirato Israele nel corso dei decenni, che è servito anche da modello altrove. Non solamente il Mossad, ma anche lo Shin Bet, cioè i servizi, diciamo, interni, quelli che in teoria dovrebbero essere infiltrati a Gaza, nella West Bank, e avere informazioni puntuali. E tutto questo è stato sventato. È la fine anche del mito dell'esercito più potente del Medio Oriente. Abbiamo visto delle scene incredibili in cui i soldati praticamente deponevano le armi ancora prima, non appena vedevano arrivare i combattenti di Hamas. Siamo già al secondo caso di fuoco amico, perché per il terrore che si tratti di combattenti sia vicino Gaza e sia al confine tra Libano e Israele, c'è stato appunto fuoco amico, si sono sparati, delle unità israeliane hanno sparato contro altre unità israeliane in preda al panico, in preda al terrore. C'è stato un grandissimo numero di militari, anche comandanti e altri ufficiali dell'esercito israeliano presi in ostaggio, attualmente detenuti a Gaza, perché ovviamente dobbiamo anche dire che la resistenza non sta agendo, ovviamente sarebbe ingenuo pensare che si tratta di una azione mirata a prendere il territorio di Israele. Questa è un'azione per avere un potere negoziale fortissimo, lo hanno detto a più riprese in questi giorni sia il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e sia Mohammed Deif, che è invece il leader del Qassam Brigade, delle brigate di Al-Qassam, che in questo momento stanno agendo militarmente. Hanno detto che loro hanno dei punti specifici, primo fra tutti il rilascio dei prigionieri, e quindi per questo la presa in ostaggio di moltissimi militari in qualche colono israeliano, poi ovviamente la forzatura del blocco di Gaza e la fine dell'occupazione militare e delle incursioni nei siti religiosi, in particolare nella moschea di Al-Aqsa. Quindi tutto questo è vero, va a sminuire. Da questo momento in poi io fatico a pensare che le cose possano tornare come erano, fatico a pensare che quell'equilibrio basato, come tu hai detto, proprio su un mito anche della sicurezza israeliana possa ritornare come era il 6 di ottobre. Fatico a pensare che l'assedio di Gaza possa continuare con le stesse modalità e che, diciamo, non si sia rivelata al mondo quella che Hassan Nasrallah qualche anno fa definì la tela di ragno. Lui sosteneva che appunto il mito della sicurezza israeliana fosse appunto un mito e non fondato sulla realtà, e che si trattasse di una sorta di tela di ragno molto penetrabile in realtà. Finora questa vulnerabilità non si era vista, adesso appare in tutta la sua evidenza. Un'ultima domanda riguarda le implicazioni di questa escalation, perché ovviamente c'è chi già sta parlando degli Stati Uniti, chi sta parlando dell'Iran. Dobbiamo aspettarci che quello che sta accadendo in Palestina e in Israele abbia ripercussioni anche di più ampio spettro? Ovviamente io mi auguro che non si arrivi a questo punto e che invece la comunità internazionale faccia pressione su Israele per sedersi a un tavolo delle negoziazioni, per cercare appunto di venire incontro ad alcune delle richieste della resistenza, che sono assolutamente richieste che poi vanno nella direzione di quello che già è sancito dal diritto internazionale, quindi smettere il blocco di Gaza, smettere con l'occupazione e con l'espansione degli insediamenti. Ma la verità è che non credo che si arriverà ad una soluzione molto in fretta, perché Israele in questo momento è frustrato, è umiliato, è in ginocchio praticamente da un punto di vista anche tattico militare, quindi sarebbe troppo, un'umiliazione troppo forte. Sicuramente c'è da una parte, gli Stati Uniti ieri hanno promesso l'invio di ulteriori armi, come se Israele non avesse armi a sufficienza. Ricordiamo che gli Stati Uniti in realtà elargiscono miliardi di dollari in armi ad Israele tutti gli anni, quindi io non credo che quello sia in realtà ciò di cui hanno bisogno. Dall'altro versante c'è sicuramente il placet e il supporto pieno di Hezbollah, che al momento non ha attaccato, come è stato detto, le postazioni israeliane. Hanno comunque sparato in territorio libanese, cioè nel territorio di Shiba al confine, ma era comunque territorio libanese. Sicuramente il Hezbollah ha dato il suo pieno appoggio all'operazione della resistenza. Chiaramente c'è chi vorrebbe che questo scontro si alzasse fino a coinvolgere il gigante, no, della regione, che è appunto l'Iran. Questo significherebbe una guerra regionale di dimensioni davvero molto grandi, non credo che sia quello di cui c'è bisogno. Probabilmente la Russia e la Cina in questo momento stanno lavorando per una soluzione negoziale. Alle Nazioni Unite infatti sembra che la Russia e la Cina abbiano appunto proposto di non passare risoluzioni di condanna nell'una e nell'altra direzione, ma di portare avanti il dialogo. Diciamo sia Cina che Russia hanno espresso la volontà di rimettersi a un tavolo delle trattative già da tempo per portare avanti quella famosa soluzione a due stati che non è mai stata attuata, e questa è la posizione, diciamo, dei grandi, dei giganti mondiali in questo momento. Gli Stati Uniti invece hanno espresso ovviamente piena condanna su le azioni della resistenza palestinese e hanno appunto ieri, Blinken ha tentennato per qualche ora, ma poi Lloyd Andrews ha detto che appunto avrebbero inviato delle armi a Israele, che dovrebbero diciamo partire nei prossimi giorni.